Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Si è aperta il 24 maggio la 27esima edizione di Forum PA, Palazzo dei Congressi di Roma, appuntamento annuale dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione. Tra i tanti eventi, veramente tantissimi iniziative, questa kermesse ha ospitato per il secondo anno consecutivo la Forum PA Call for Ideas, iniziativa rivolta a selezionare le 12 startup con i progetti più innovativi per la pubblica amministrazione. Ne parliamo con Gianni Dominici, che è direttore di Forum PA. Buonasera Dominici, bentornato a Smart City. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, senta, non proviamo neanche a descriverlo Forum PA, perché veramente ci sono centinaia, credo, gli eventi, e sarebbe un elenco abbastanza inutile da questo punto di vista. Allora, proviamo a concentrarci su due di questi progetti che vengono fuori da questa Forum PA Call for Ideas, che mi pare abbiano una particolare rilevanza proprio per quanto concerne il tema dell'efficienza della pubblica amministrazione, che è molto sentito in Italia. Uno di questi progetti, una di queste startup, si chiama Condividi PA. Che cos'è? Ma Condividi PA è un'idea semplice, come tutte le idee che ci sono pervenute, però decisamente ha grandissimo impatto in termini di risparmio. L'idea è questa: condividiamo attraverso questo portale le risorse della pubblica amministrazione. Faccio l'esempio più banale: magari in un comune dove non nevica spessissimo, però c'è bisogno dello spazzaneve. Ecco, invece che ciascun comune si compra il proprio spazzaneve, ne usiamo uno e lo condividiamo, cioè condividere quindi i beni della pubblica amministrazione con gli altri enti. In prospettiva l'idea è anche di far condividere i beni con i cittadini. In questo caso l'esempio più banale può essere il tagliaerba. Magari l'ufficio giardini ha il suo tagliaerba, il sabato e la domenica non lo usa perché la pubblica amministrazione non lavora, magari lo può mettere a disposizione dei cittadini. Quindi la logica è condividere i beni. Beh, direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. È veramente chiaro ed evidente anche il vantaggio che si potrebbe ricavarne. Spero invece un altro progetto che potrebbe rendere un po' più facile, no, l'interazione fra cittadini e pubblica amministrazione, che è anche un po' il core business poi di Forum PA. Ma sì, in questo caso anche l'idea è semplice, ma decisamente geniale, certo, come si dice. Cioè, creare uno sportello virtuale dove dall'altra parte non c'è un semplice sito web, ma un operatore o un'operatrice che risponde al cittadino. E quindi in pratica lo sportello arriva a casa, l'operatore arriva a casa e non viceversa. Non è il cittadino che va alla pubblica amministrazione, ma la pubblica amministrazione che arriva nei nostri, cioè, casi. Non è, non attraverso è, ovviamente le vie telematiche. Ecco, non è il sito web attraverso il quale io mi faccio le cose da solo, mi trovo proprio un operatore dall'altra parte ci parlo, che tra l'altro sembra una cosa ovvia nell'era di Skype eccetera eccetera, eppure sembra difficilissimo farlo con la pubblica amministrazione. A proposito, ma perché è così difficile? È questione di identificarsi, di dove sta il problema? Ma noi abbiamo una pubblica amministrazione, noi abbiamo presentato la nostra ricerca anche quest'anno, noi ogni anno facciamo una fotografia. Noi abbiamo una pubblica amministrazione purtroppo dove l'età media è arrivata a 50 anni, e abbiamo una pubblica amministrazione dove mediamente i nostri dipendenti accedono a mezza giornata di formazione l'anno. Noi dobbiamo assolutamente motivare questo importante esercito, questo importante asset del nostro paese. Dobbiamo motivarlo attraverso la formazione e premiando i migliori, è fondamentale. Non ci sono difficoltà tecniche particolari, insomma, a fare questo questo tipo di cose. Dobbiamo fare innovazione tecnologica, ma soprattutto innovazione culturale. Ecco, da questo punto di vista, tra l'altro, lo scorso 16 maggio c'è stata l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del cosiddetto Freedom of Information Act, che tra l'altro non sembra così nuovo, insomma, mi risulta che in Italia ci fosse una legge sulla trasparenza, perché e di questo stiamo parlando, cioè di una legge che sostanzialmente obbliga la pubblica amministrazione a condividere i dati e a rendere trasparenti tutte le informazioni pubbliche. Che cosa cambia con questo Freedom of Information Act e che cosa possiamo fare per dare concretezza per queste prospettive, che altrimenti restano fogli di carta? Ma la cosa importante, sì, in Italia già esistono delle leggi. Con il FOIA anche l'Italia partecipa a un movimento come un movimento mondiale. Il FOIA, ovviamente lo dice la parola stessa, è una parola inglese e quindi è un movimento a livello Si aderisce metodologicamente a una cultura che è la cultura per cui tra i diritti di cittadinanza c'è anche il diritto alla conoscenza. Quindi voglio dire, più che un cambiamento tecnico, è un cambiamento culturale. Ora però, e questa è la cosa importante, e sono i problemi che spesso ci troviamo davanti noi che operiamo nella pubblica amministrazione, dobbiamo trasformare le buone intenzioni in atti concreti, in benefici per i cittadini. E per far questo, ritorno al discorso di prima, è necessario formare e coinvolgere chi poi nella pubblica amministrazione ci lavora tutti i giorni, anche con sacrificio, e ha bisogno di strumenti giusti per poter poi portare avanti queste riforme. Se no rimangono, vengono viste come l'ulteriore incombenza, no? Vengono certo, viste come certo. un adempimento e non come un'opportunità che arricchisce sia chi lavora nella PA sia il cittadino. Ecco, dal vostro osservatorio, appunto, nell'ultimo anno qualcosa si è mosso dal punto di vista anche della digitalizzazione della pubblica amministrazione? Qual è il bilancio degli ultimi 12 mesi rispetto all'ultima edizione, insomma? Beh, ci sono due cose fondamentali. Una, abbiamo detto, è il FOIA, sì. ma l'altra è lo SPID, cioè la identità okay. digitale. Con lo SPID davvero il cittadino ha un'identità digitale e ha un'identità unica con la quale si riferisce alla PA. Ora la scommessa qual è? Ne parleremo fra 12 mesi. Quante pubbliche amministrazioni e con quale velocità aderiscono allo SPID? Va bene, grazie. Grazie Dominici. Grazie a voi. Buon lavoro. Ci fermiamo qui anche per questa sera. Ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata.